Ciao a tutte e tutti, eccoci con la nuova puntata di Uhuru, la trasmissione che parla di Africa. Staremo insieme per circa un'ora, ora del venerdì alle 9:30. Vi ricordiamo che se non potete ascoltare tutta la trasmissione, potete sentire la replica. Domenica alle 10 di mattina o lunedì alle 14. Questa trasmissione è basata esclusivamente sulle voci di donne africane, le voci di cantanti africane. È una seconda puntata che facciamo da questo punto di vista, cioè in cui i pezzi che mandiamo sono interpretati da donne africane che tra l'altro hanno tutte le caratteristiche di battersi per un'emancipazione della donna africana. E sentiremo pezzi anche di cantanti già passate precedentemente, in particolare Busim Lonko, la cantante sudafricana, Oumou Sangaré e Nahama Doumbia. C'è però una cantante, un interprete particolare, che si tratta di Gabriella Germandi, è un'etiope nata ad Addis Abeba e attualmente residente a Bologna. Lei si parla di sé in questo modo: per i bianchi non ero bianca e per i neri non ero nera. La nostra era una vita mista, fatta di quattro lingue: amarico e italiano tutti i giorni, bolognese e tigrino nei giorni di festa. Come detto, è nata ad Addis Abeba, adesso vive in Italia. Ha scritto un libro e portiamo delle conclusioni, dei pensieri suoi in un'intervista fatta appunto per la presentazione del libro. Dice Gabriella, non si parla più del colonialismo italiano, è un pezzo di storia scolorita sino a diventare invisibile. Di quel periodo restano due concetti. Il primo sostiene noi italiani colonialisti, ma no, e il secondo, siamo stati delle bestie, abbiamo usato i gas nervini. Ma questi concetti non sono la storia del colonialismo italiano, perché quella storia è costituita dalle tante infinite storie personali. E la sua naturalmente è una di quelle. Cioè, suo nonno era in Eritrea, ha conosciuto una ragazza eritrea, giusto appunto, l'ha sposata e per questo è stato cacciato, perché comunque, anche se ancora non erano state fatte le leggi razziali, di sicuro un matrimonio misto non era ben visto. Tanti anni dopo lei ritorna nella Bologna del padre, e di cui dice che è una città dove gli alberi non devono avere radici troppo grandi, se no rovinano l'asfalto. E poi dice che qui a Bologna ho capito che non ero italiana. Tant'è che sua madre è ritornata in Africa e dice che finalmente sua madre si è sentita di nuovo rinascere e si è sentita di nuovo se stessa. Di lei sentiamo Bir Be Kibir. Thank you. Buzz and Jindy. Gabriella Germandi interpretava Becky Beer, un pezzo con influenze jazz, proprio perché appunto la scena musicale di Addis Abeba è pesantemente e fortunatamente influenzata da questo genere musicale. Appuntamenti domani, un appuntamento importante per chi segue Radio Wombat. Il Wombat esce dalla tana e va a preparare un aperitivo, una pericena al centro sociale autogestito Nest Emerson, ma non solo la pericena, anche tutto il materiale pubblicitario, propagandistico, agitprop della radio, per cui adesivi, volantini, informazioni sul palinsesto e via dicendo. A seguire ci sarà una DJ set particolare, nel senso che i DJ conduttori, diciamo, delle varie rubriche di Radio Wombat metteranno i loro pezzi preferiti. E tutto ciò fino alle 23, quando poi saliranno sul palco i gruppi per il concerto organizzato dal collettivo Nuovi Rumori, e quindi in particolar modo un genere musicale punk, noise, hardcore. Tutto ciò appunto domani al CSA Nest Emerson in via di Bellagio 15, mentre invece sabato prossimo, il 1 aprile, sempre al centro sociale autogestito Nest Emerson, un altro appuntamento da non perdere, se non altro in questo caso non perdere per chi ama lo sport, per chi ama il cucilato, per chi tifa, diciamo, per chi piacciono le palestre popolari, perché appunto il 1 aprile si terrà l'Assemblea Nazionale delle Palestre Popolari Autogestite, e quindi un po' da tutta Italia verranno al centro sociale per discutere quello cui si verrà fatto tutti insieme da parte di questi sodalizi popolari autogestiti sportivi nel prossimo futuro. Ascoltiamo adesso un pezzo di Fatoumata Diawara, meglio conosciuta come Fatou, cantante maliana, figlia di genitori maliani mandati in Costa d'Avorio. All'inizio della sua carriera è stata famosa come danzatrice Vassolu, che è una terra nel Mali occidentale. È un'artista molto poliedrica, ha fatto danza, ma anche film, teatro. Vi facciamo sentire di Fatoumata Diawara, Son Colonne. Son colo tu mambela. notte ni de mango yara dua kono uba foya ti men ka soro ya ti mante ka baga wali de ma ama vengila kana baga fala to ma ama vengila ni kana baga ya ti mema ama vengila ni kana baga fala to ma ama vengila son son son son son son son son son wa son son son son son son son son son wa son son son son son son son son wa son son son son son son son son son wa Soprattutto il passato dell'Africa sono spesso rappresentati per mostrarne l'oscurità e le privazioni. Questo perché si tende sempre, si vuole anche volutamente, non fare una storia dell'Africa, non scriverla, non interpretarla prima della venuta dei bianchi, prima della colonizzazione dei bianchi. E nello stesso momento, proprio per questo motivo, proprio perché si vuole o si è voluto che l'Africa sia senza storia, i manufatti, le opere storiche, le opere diciamo monumentali, architettoniche, disegni, pitture, sculture sono stati saccheggiati durante gli anni, durante il periodo coloniale, ma anche precedentemente, quando semplicemente i bianchi esploravano l'Africa. Si parla tanto appunto dei marmi di Elgin, quelli trafugati appunto da Lord Elgin, Partenone di Atene. Ma per esempio, ma non si parla, mentre per i marmi di Elgin si è trattato di un acquisto da parte di Lord Elgin e quindi poi di una successiva vendita al Parlamento inglese, la maggior parte delle opere d'arte africane che si trovano in Europa sono state sottratte tra lacrime, morte e distruzione scatenate dalle forze coloniali sugli africani. È stato calcolato che solamente in Benin più di 4.000 manufatti sono stati portati via durante una spedizione punitiva, tra virgolette, inglese, che ha causato uccisioni, mutilazioni e saccheggi nella capitale del Benin, e spediti al re di allora che si trovava in esilio. I manufatti non sono soltanto opere dotate di senso estetico, ma per i popoli africani, in questo caso per il popolo del Benin, rappresentano anche la loro storia e la loro cultura. Negli intagli del legno e nelle sculture sono incise immagini figurate e simboliche del livello di sviluppo e generazione degli africani. Questi manufatti sostanzialmente per loro sono un po' come le macchine fotografiche, le fotografie o i videoregistratori. In Congo i saccheggi sono stati ancora peggiori. Il re Leopoldo II del Belgio, oltre a ordinare e tagliare gli arti dei suoi lavoranti bambini e a uccidere milioni di congolesi per non aver fornito abbastanza gomma alle sue aziende, si è divertito a impossessarsi manufatti congolesi vecchi di migliaia di anni. Il Museo Reale Belga dell'Africa Centrale rimane uno dei musei più visitati al mondo. ma il colmo è che quasi la stragrande maggioranza delle opere esposte sono opere d'arte rubate ai congolesi. Quasi 300 strati di legno commemorative conosciute come Vigano, strato di legno funerario del gruppo etno Mikinda del Kenya, sono state rintracciate in 19 musei americani. Il Meneates di Tsavo, i resti del leone che ha ucciso circa 140 lavoratori indiani prima di essere ucciso da un ingegnere della ferrovia inglese nel 1898, per dire, è tenuto nel Field Museum di Chicago. Chissà perché. Perché? Se il leone mummificato si trovasse in un museo africano, potrebbe servire come ispirazione per molte tesi di master e dottorati di ricerca di molti accademici africani, ricerche, articoli, film, eccetera, eccetera. Ma tuttora gli africani si siedono in circolo per cercare ispirazione dagli oggetti, sicuramente devono comunque basarsi su quello che c'è attualmente e non sulla loro storia. È come se noi non potessimo andare a vedere la Venere dei Botticelli o andare a vedere l'ultima scena di Leonardo, sostanzialmente. Ma non solo, non viene assolutamente riconosciuto il diritto da parte dei popoli africani nel momento in cui li viene richiesto, tali richieste sono state migliaia e migliaia dopo che gli stati africani hanno raggiunto l'indipendenza, quindi nel 1960. Non è ancora mai stato soddisfatto una richiesta da parte di un governo africano nel momento in cui ha richiesto indietro i propri manufatti, le proprie opere d'arte sottratte durante il periodo coloniale. E, per esempio, nel Quai Branly Museum a Parigi, nel Victoria and Albert Museum di Londra, altre centinaia di musei e collezioni private in tutto il mondo, la storia africana è fonte di ispirazione, però è fonte di ispirazione per i popoli comunque di cui i progenitori, i babbi, i nonni hanno invaso, hanno attaccato, hanno colonizzato i paesi africani, mentre invece non può essere fonte di ispirazione, non può essere vista, guardata semplicemente o anche disegnata da parte degli africani. E quindi in alcuni ambienti sono state avanzate argomentazioni secondo cui l'Africa non è un continente stabile e in grado di prendersi cura dei suoi manufatti se restituiti, come se da noi non succedesse mai che vengono sottratti, rubati opere d'arte, come se da noi per esempio fossero tutti ben guardati, ben visti, ne sono piene le cronache di tutti i giorni, se non di tutti i giorni, di tutti i mesi, di dipinti, di statue rubati, e quindi proprio perché non c'è attenzione, come magari non ci potrebbe essere in Africa, ma è la medesima cosa. Sappiamo benissimo che Pompei sta lentamente, ogni tanto si stacca un pezzo da qualche edificio, per esempio. E quindi perché l'argomentazione che l'Africa non è un continente ormai stabile in grado di prendersi cura dei suoi manufatti se restituiti? E quindi, anche se fossero rimborsati centinaia di milioni di dollari raccolti dai vari musei che sono in possesso dei manufatti africani, non potrebbero mai essere utilizzati come risarcimento per il divario cognitivo che esiste nelle menti e nei cuori di generazioni africane. E quindi, ecco, prossimamente daremo anche notizia di come si sta evolvendo la richiesta da parte del Benin di 4.000 manufatti avanzata al governo africano. Adesso passiamo ad un'altra cantautrice maliana, cioè Nawa Doumbia, nata in Mali in un piccolo villaggio situato al confine con la Costa d'Avorio, è di tribù Fula e è una femminista. I suoi testi sono potenti, critiche contro la poligamia e per i diritti delle donne e dei bambini. Sua madre, che è morta pochi giorni dopo la sua nascita, le aveva predetto un futuro da cantante, anche se lei non faceva parte della casta dei griot. Quindi sembrava una cosa impossibile, mentre invece è una delle cantanti più famose in Mali e mantiene ancora oggi tutto il fascino della sua voce infantile e ha deciso di tornare alla musica tradizionale Bassolu, e cioè togliendo la batteria e sintetizzatore e aggiungendo balafon, chitarre e percussioni. Quindi, Nawa Dumbia, ascoltiamo la Ban Co. Thank you. e questa era Nawa Dumbia. Ricordiamo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, la nostra mail postawombat@insiberia.net. Dal sito wombat.noblogs.org potete guardare il palinsesto per cercare le trasmissioni che vi possono piacere. Potete cercare i podcast delle trasmissioni passate e sentirli direttamente sul sito, oppure scaricarli e sentirli nel vostro telefonino, eccetera. È una notizia, siamo una web radio e quindi particolare attenzione anche a quello che succede nella rete e per la rete in Africa. .africa, il continente avrà un proprio dominio internet. Si chiamerà .africa, punto Africa, e potrà essere utilizzato da siti individuali, istituzioni e via dicendo. Il dominio è stato lanciato da Nkosazana Dlamini Zuma, cioè presidente dell'Unione Africana, è arrivato a 25 anni dalla diffusione del World Wide Web a livello mondiale e a 30 anni dalla registrazione del primo dominio. L'iniziativa è scritta in un comunicato dell'Unione Africana e rilanciato dal sito www.africanews.com, farà diventare il nostro continente una comunità unica nello spazio virtuale di internet. L'Africa sarà unita sotto un solo ombrello e quindi si tenterà di far prevalere, invece che l'estensione delle singole nazioni, l'estensione .africa per qualsiasi sito web sarà registrato nel continente africano. E appunto finora la registrazione di un dominio in Africa era molto costosa, in alcuni paesi toccava addirittura i 250 euro, scoraggiando molti dalla registrazione, mentre invece registrare il nuovo dominio sarà più economico, si aggirerà su circa 18 euro in tutto il continente. Sarà sviluppato da una società di software sudafricana sotto l'egida dell'Unione Africana. Secondo i dati forniti dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, attualmente gli utenti africani di internet sono il 9% del totale mondiale, mentre invece la popolazione del continente africano è molto più del 9% del totale mondiale. Finora la penetrazione del web nel continente è stata limitata, attualmente solo il 10,7% delle famiglie sono connesse. Volevamo ricordare anche un particolare curioso, che uno dei domini dei paesi di cui è più utilizzato il dominio è Djibouti, proprio perché il dominio, l'estensione dei domini di Djibouti è DJ e quindi viene spesso utilizzata molto spesso i DJ di altre nazioni, di tutte le nazioni del mondo registrano il loro dominio a Djibouti proprio per far seguire il loro nome dal suffisso DJ. Passiamo ora a una cantante di cui abbiamo già mandato alcuni pezzi, in particolare abbiamo mandato Zinziwa, si tratta di Busi Mlongo, una cantante sudafricana nata nei pressi di Durban, nel KwaZulu-Natal. Durban è una delle più grandi città sudafricane, il KwaZulu-Natal è uno degli stati più caratteristici del Sudafrica, tant'è che dopo l'indipendenza ha riacquistato il vecchio nome KwaZulu, appunto, e che vuol dire appunto la patria degli Zulu. È iniziato come molti altri cantanti sudafricani, cantando appunto nei cori, nei gruppi, mentre era ancora a scuola. Poi si è trasferita a Johannesburg e la sua versione è già iniziata a cantare già nel 1963 con delle versioni, la versione di My Boy Lollipop, che è diventata un successo nazionale. Poi si è trasferita a Londra e ha cominciato a registrare con altri esiliati sudafricani, proprio perché a Londra si trovava una più grossa comunità sudafricana e proprio perché la musica e i testi di Busi Mlongo erano in contrasto, erano contro l'apartheid, e quindi il regime dell'apartheid non l'ha fatta rientrare in Sudafrica. Chiaramente il ritorno, come tutti gli esuli, è stato nel 1990, appena dopo la liberazione di Mandela, perché la liberazione di Mandela ha significato la fine sotto certi aspetti del regime dell'apartheid. e ci sentiamo uno dei pezzi più conosciuti di Busimi Longo, in questo caso con il suo gruppo che si intitola Tuasa, e il pezzo si intitola Babemu, ed è la title track, diciamo, dell'LP omonimo. Busimi Longo con Babemu. Thank you. Mandela non è una persona qualsiasi in Sudafrica, non solo per il nome che porta, ma anche per quello che tuttora rappresenta, cioè una cospicua fetta di elettori dell'African National Congress, una cospicua fetta di associazioni di contadini. E Ndlika Mandela, proprio questa settimana, ha dichiarato che non voterà più l'African National Congress, perché non si riconosce più nel partito. L'African National Congress, a suo parere, non rappresenta più i valori di giustizia ed uguaglianza per i quali Nelson Mandela, leader della rivolta apartheid e primo presidente sudafricano, si era battuto. Secondo Ndikela, negli ultimi anni il partito ha trascurato i poveri, non ha più lottato per il loro riscatto. Non voterò per una formazione che rappresenta ciò per cui mio nonno e i suoi compagni si sono spesi per anni, ha detto l'emittente News 24 Sudafrica. Ndlika Mandela, che ha 52 anni adesso, è infermiera, ma la sua occupazione principale è la gestione, diciamo, della fondazione della famiglia Mandela ha creato per aiutare i contadini sudafricani. E nell'intervista è stata molto dura, affermando che l'African National Congress, negli anni in cui ha gestito il potere, ha sperperato ingenti risorse pubbliche. E per questo si è convinta a non dare più il voto alla formazione di cui suo nonno è stato leader indiscusso. Tra le tante motivazioni che ha dato per non votare, oltre a quella di non battersi più per i poveri, avere sperperato ingenti risorse, è anche il continuo peggioramento delle condizioni dei malati psichiatrici che non godono più dell'assistenza necessaria. E appunto ricordiamo che è infermiera, ma è infermiera in una istituzione particolare, appunto un ospedale psichiatrico. Adesso passiamo ad un'altra cantante maliana, Oumou Sangaré, che è la voce del femminismo in Africa occidentale. In una regione dove la poligamia è la norma e le donne sono spesso viste come la proprietà dei loro mariti, la musica di Oumou Sangaré è diventata il simbolo della lotta contro lo squilibrio di genere. Oltre al loro contenuto sociale, le canzoni di Sangaré sono piene di gioia e riportano ai ritmi tradizionali del Mali, che sono state tramandate da generazioni. È nata a Bamako, la capitale. I suoi genitori erano emigrati dalla regione rurale di Wassolou, a sud del fiume Niger. Sua madre, Aminata Diakité, anche lei era una cantante di talento e naturalmente ha incoraggiato la figlia a seguire le sue orme. Ha fatto il suo debutto da piccola, circa a 6 anni, davanti a un pubblico di circa 3.000 persone. Dal momento che il Mali ha ottenuto l'indipendenza nel 1960, la regione Wassolou ha prodotto un flusso costante di splendide voci femminili, di cui alcune le stiamo ascoltando stasera. Quindi di lei, di Oumou Sangaré, sentiamo la canzone Samagni. Thank you. lo sai amanyimba sa te jondai sa te janindo sa ya te moto wari sa amanyimba sa te jondai sa te janindo sa ya te moto sevi sa amanyimba mukalu severo gindo tununa Jabiari koi nininya mana otala pama kosila fantani nininya furumuzo fantani nininya ogilo furumuzo fantani saya mangumake saya mana otala pama kosila la alu nininya tora wele alu nininya ogilo kirike alu saya mangumake Sibero. Siete sempre all'ascolto, siete sempre all'ascolto di Uru, la trasmissione dei suoni e notizie dal continente africano, e quindi siete sempre all'ascolto di Radio Wombat. Ricordiamo Uru in onda il venerdì alle 21.30 con repliche la domenica alle 10 e lunedì alle 14. Ma non solo Uru alle repliche, tutte o quasi tutte le trasmissioni sono replicate più o meno in linea di massima due giorni dopo da quando sono andate in onda in diretta, due giorni dopo alla mattina e tre giorni dopo nel pomeriggio. Se non potete, non ce la fate, non avete la possibilità di ascoltare le trasmissioni in diretta oppure in replica, potete comunque scaricare i podcast di tutte le trasmissioni andando sul sito, il solito sito wombat.noblogs.org, è quello a cui potete anche ascoltare radio streaming, e appunto scaricarvi i podcast. La prima voce sulla sinistra, l'aprite, scorrete e ci sono in ordine alfabetico tutte le trasmissioni. Cliccandoci sopra entrate nella pagina podcast della singola trasmissione e a quel punto la potete a sua volta sentire oppure scaricare per sentirvi con più calma successivamente. Adesso ascoltiamo una delle voci più belle, voci femminili più belle dell'Africa, e cioè Rokia Traoré, di etnia Bambara, nata a Kati, un sobborgo di Bamako, figlia di un diplomatico, ha viaggiato molto in giovinezza e tornando poi a Bamako ha registrato le sue prime canzoni sotto la direzione artistica di Alifar Katuré. Nel 2006 ha scritto e interpretato, in occasione della celebrazione del 250° anniversario della nascita di Mozart, uno spettacolo dove quest'ultimo appare come un musicista griot che vive nel XIII secolo al tempo dell'impero mandingo. Il suo quarto album, Chamanché, uscito nel 2008, di cui andiamo ad ascoltare la canzone omonima, include una cover di The Man I Love di Billie Holiday, una delle sue cantanti preferite. Noi ci ascoltiamo Chamanché, appunto dall'album omonimo, Rokia Traoré. La musique de la vie, seule en son cercle, en tournée, en anticipation, modération, ce qui parmi les hommes sans orgueil ni excès, mais avec grandeur d'âme ont mené la danse. Humilité, détermination, humanité, swing de la vie, superbe politique, c'est tout, harmonie religieuse, tiki bang bang, superbe diplomatique, bang bang, harmonie politique, tiki bang bang, superbe don. Nostro ultimo brano, vi lasciamo qui e vi rimandiamo, vi aspettiamo venerdì prossimo alle 9:30 per una nuova puntata di Uru, e vi aspettiamo anche domani alla pericena al CSA Nest Emerson di sottoscrizione alla radio, ci piacerebbe vedervi anche di persona. Buonanotte a tutte e tutti. Ciao ciao.